sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Di emergency liberati in Afghanistan non vogliono rientrare con il volo di Stato. No, non è vero. Cieli di nuovo chiusi in Italia e forse anche domani la Commissione Europea prioritario dice riprendere i voli. I giudici stop al processo Mediaset e gli atti inviati alla Corte Costituzionale. Incentivi troppe richieste, qualcuno potrebbe non ricevere i soldi della due ruote comprata. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Fra poco torneremo ad aggiornarvi sul caos voli dovuto alla nube islandese, come ormai sapete. Prima però la vicenda degli operatori di emergency in Afghanistan, che sta continuando a tingersi di giallo. È stato tutto un equivoco, non c'è stato alcun rifiuto. I responsabili di Emergency smentiscono le notizie circolate oggi sul rientro dei loro tre operatori rilasciati ieri dalle forze di sicurezza afghane. Marco Garatti, Matteo Dell'Aira e Matteo Pagani hanno passato la prima notte dopo la loro liberazione in casa di amici a Kabul. In mattinata sembrava che i tre si fossero rifiutati di tornare in patria con un volo di Stato, in particolare con il Falcon, sul quale il sottosegretario alla difesa Crosetto è arrivato in Afghanistan per partecipare al cambio del comando del contingente italiano ad Herat. Stiamo valutando con l'ambasciatore Massimo Iannucci tutte le possibilità di farli rientrare, ha spiegato invece dalla capitale afghana Rossella Miccio, membro del direttivo di Emergency, la quale ha anche aggiunto che i problemi per l'eruzione del vulcano in Islanda non aiutano ad accelerare i tempi del rientro dei tre volontari. Per il momento sembra che si faccia prima con un volo commerciale sul quale viaggerò anch'io, ha spiegato lo stesso ambasciatore Iannucci, bloccando così sul nascere nuove probabili polemiche fra il governo e l'organizzazione fondata da Gino Strada. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grande soddisfazione per la liberazione dei tre volontari di Emergency. Abbiamo fatto il possibile, spiega il ministro Frattini, ma poi li hanno liberati. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Che sei l'unico complice di questa storia magica. Ed ora torniamo a parlare della nube di cenere che proprio non vuol far ripartire i voli in Europa, anche se, dicono gli esperti, l'attività del vulcano sta diminuendo, meno male, almeno questo. La priorità al momento è riprendere comunque i voli tenendo conto della sicurezza dei passeggeri per affrontare l'impatto economico superiore a quello dell'11 settembre. A parlare così il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas, impatto economico che cresce sempre più visto che continuano dunque a restare a terra gli aerei di mezza Europa. Oggi infatti doveva essere la giornata del lento ritorno alla normalità, ma non è affatto così, come ci racconta in diretta Adriana Fracchia. Sì, buongiorno, come avete detto da studio l'Europa resta divisa a metà a causa della nube di cenere che arriva dall'Islanda. Per Eurocontrol, l'ente europeo per la sicurezza dell'aviazione civile, oggi è prevista la cancellazione del 70% dei voli, concentrata soprattutto nei paesi del centro-nord dove restano chiusi la maggior parte degli spazi aerei. A causa di un peggioramento dei venti, i cieli del nord Italia sono stati richiusi dopo soltanto due ore a partire dalle 9 di stamani e se le previsioni restano quelle attuali è probabile che anche domani gli aeroporti rimangano chiusi. Una decisione definitiva verrà comunque presa dall'ENAC entro le 21 di questa sera. Ancora bloccati i collegamenti aerei in Francia, Olanda, Belgio, in Germania fino alle 2 di domani, così come in Gran Bretagna, dove per agevolare gli spostamenti dei britannici è scesa in campo anche la marina inglese. L'Austria ha deciso invece la riapertura, così come l'Ungheria, la Danimarca, ma solo al di sopra di una quota di 35.000 piedi, la Finlandia, la Romania e la Repubblica Ceca. La Svizzera ha invece prorogato il divieto di decollo e atterraggio sui suoi aeroporti fino alle 8 di domani, mentre in Spagna e in tutto il sud Europa gli aeroporti sono operativi. E intanto la nube di cenere potrebbe raggiungere oggi le coste del Canada. Ed è tutto per ora, linea allo studio. E a quel punto sarebbe un problema del Canada. Dunque cieli europei ancora chiusi per la maggior parte dei casi, Italia compresa, come abbiamo sentito. Tanta delusione dei passeggeri ormai a terra da giorni a Malpensa, come abbiamo sentito nel collegamento delle 12. Sentiamo invece come va a Fiumicino e ci colleghiamo per questo con Nicola Accardo. Nicola. Sì, buongiorno. Qui a Fiumicino rabbia e delusione per l'inaspettata cancellazione dei voli per Milano. E poi la situazione è caotica, soprattutto alle biglietterie Alitalia, dove le file durano circa 2 ore. Vengono passeggeri che partono anche nei prossimi giorni e chiedono il rimborso del biglietto prima di noleggiare un'automobile o prendere il treno. C'è anche poi chi rinuncia al viaggio di nozze per Parigi e lo rimanda all'estate. Nel Terminal 2 sono stati accantonati i letti e le brandine di emergenza, ma solo per consentire la pulizia dei locali. I volontari della Protezione Civile si aspettano un'altra serata da codice rosso e nel tardo pomeriggio dovrebbero arrivare altri letti e coperte. Privilegiatori bloccati a Fiumicino anche 3 ragazze canadesi che dovevano partire 3 giorni fa per Londra. In tutto passano 6 notti in aeroporto e pare che non sia il massimo. Il numero di posti letto non è sufficiente e la notte bisogna fare i turni per andare a dormire. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Nicola Accardo. Insomma, passeggeri ostaggio negli aeroporti, un po' come nel film The Terminal, in preda all'ansia di tornare a casa, giustamente, di tornare al lavoro o anche solo di andare in vacanza. Insomma, improvvisamente ci accorgiamo che i tempi della natura non sempre coincidono con quelli degli uomini. Bruno Contigiani, fondatore di Vivere Slow, sottolinea gli aspetti positivi di questa insolita esperienza. Ma io spero che il vulcano abbia davvero convinto gli uomini che non sempre possono fare quello che vogliono e che non sono sempre autori del proprio destino. Questa, come si è detto anche per la crisi, può essere un'occasione per riflettere sui nostri limiti e anche per farci capire che tante volte facciamo delle cose inutili. Io spero che una parte delle persone che sono state costrette a rallentare siano riuscite magari a godersi questo tempo. Certo, ci saranno molti arrabbiati, molte persone che hanno perso delle occasioni, delle opportunità anche di business, però ci sarà qualcun altro che spero riesca a gustarsi questo tempo fermo, questo tempo vuoto, questo tempo che a questo punto può diventare per se stessi. Capire che la natura comunque ogni tanto ci dà dei segnali, quindi anche ricordarci che comunque non siamo in grado di governare sempre la natura, non siamo in grado di governare il tempo, non siamo in grado di governare la meteorologia e dobbiamo smetterla di arrabbiarci se ci hanno detto che ci sarebbe stato il sole e pioverà, oppure se ci hanno detto che ci sarebbe stata la neve e non c'è stata. E chiudiamo questa pagina dedicata al caos voli ricordandovi, tanto per consolarci, che almeno è stato revocato lo sciopero di venerdì di autobus, metro, insomma dei mezzi pubblici. Torneremo a parlare di quello che sta invece accadendo nei nostri cieli fra poco nello speciale delle 13:30. Ed ora il calcio all'indomani del derby romano. 4 tifosi accoltellati e 8 arrestati, questo è il bilancio degli incidenti avvenuti nel post derby di Roma. L'episodio più grave ha riguardato un giovane tifoso ferito alla gola e operato d'urgenza al Policlinico Gemelli. Le condizioni sono stabili, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Negli incidenti inoltre è rimasta coinvolta anche una macchina data alle fiamme con dentro una mamma e 2 bambini. Fortunatamente tutti salvi, anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che la follia di pochi teppisti degenerasse in tragedia. Questo è l'epilogo di una gara che la Roma riesce a vincere riacciuffando la testa della classifica. Partita dalle 1000 emozioni, quella dell'Olimpico, che vede la Lazio portarsi in vantaggio con Rocchi al 13° minuto del primo tempo, con i biancocelesti che potrebbero addirittura raddoppiare grazie ad un calcio di rigore che Floccari però si fa respingere da Giulio Sergio. Dal colpo del possibile KO i giallorossi trovano la forza di reagire. Il momentaneo 1-1 arriva al 7° della ripresa. Kolarov stand day in aria per tagliavente rigore che Vucinic trasforma. Il momentaneo vantaggio dà forza alla Roma che si getta in avanti alla ricerca dei punti sorpasso, impresa che riesce al 18° quando dal limite ancora una volta Mirko Vucinic a stendere Muslera con un potente calcio di punizione. Marco Montanari, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma come vive questa atmosfera un tifoso doc, un attore che al cinema è stato proprio nel cast dei Tifosi? Sta per uscire il suo disco dedicato a Roma, ma per ora lui si dedica alla Roma. È Maurizio Mattioli, sentiamolo al microfono di Marta Cagnola. Io mi sento onorato di essere romano, felice, e difendo sempre la mia città, soprattutto negli stadi e nelle cose, se non siamo molto bersagliati, soprattutto al nord. Io sono stato anche picchiato in qualche stadio, ma non ha importanza, non è questo il momento per dirlo, ma io ho sempre tenuto al collo la mia, la, mia sciarpa giallorossa. Nessuno me la riuscito a strapparmela, capito? Come vivi tu il tifo? Purtroppo lo vivo male, non mi piace. Prima ci stavano gli sfottò, prima di cose, adesso c'è l'odio, la violenza. Il calcio spesso è straordinariamente importante, è un carro che traina tante cose, spesso traina dietro di sé anche queste fazioni. Lo vivo male questo calcio sotto questo aspetto, capito? Lo vivo bene sotto l'aspetto della passione, del piacere di avere la mia squadra del cuore, ma sotto tanti aspetti, insomma, ogni domenica c'è qualche cosa, capito? Non lo vivo bene in questo senso. Ma mi fa pensare che non ci siano poi più quei valori neanche puri, quelli dati dello sport che reggano, no? Per tenere unita la gente, per far vincere lo sport. Abbiamo aperto questo GR24 parlando della vicenda dei tre cooperanti di Emergency liberati in Afghanistan ieri e ben entro domani. I tre rientreranno in Italia con un volo commerciale accompagnati dall'inviato del ministro Frattini per l'Afghanistan, Massimo Iannucci. La notizia di questi minuti è che stamattina si era parlato invece della volontà dei tre cooperanti di non rientrare con un volo di Stato, poi la smentita di Emergency, ora dunque la conclusione, o almeno la conclusione per il momento, entro domani i tre cooperanti di Emergency rientreranno in Italia con un volo commerciale. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del mistero del rientro dei tre cooperanti di Emergency liberati ieri in Afghanistan. Notizia dell'ultima ora che rientreranno domani in Italia con un volo commerciale. Stamattina la notizia poi smentita da Emergency, che non volevano tornare con un volo di Stato. Cieli di nuovo chiusi in Italia, forse lo resteranno anche domani. La Commissione Europea dice prioritario riprendere i voli. Scontri e feriti dopo il derby romano e Ranieri diventa il nuovo re di Roma. E ripartiamo dalla politica, perché quella che si è aperta oggi è una settimana importante, soprattutto per quello che sta accadendo all'interno della maggioranza. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Sì, Piera, il PDL è alla ricerca di gesti distensivi per evitare la rottura definitiva tra Fini e Berlusconi. Ignazio La Russa è convinta che Gianfranco Fini non lascerà il partito. In questo caso però il ministro della difesa si dimetterebbe da coordinatore del Popolo della Libertà, ma non seguirebbe il presidente della Camera. Tutti sanno che di fare il coordinatore me l'ha detto Fini, se poi mi volessero confermare sarebbe la volontà del partito. Sulle riforme La Russa auspica un ruolo fattivo del presidente della Camera e anche di quello del Senato, ma non andrà alla riunione di domani quando Fini riunirà i suoi in assemblea. I numeri per fare i gruppi parlamentari ci sono, una quarantina alla Camera, una ventina al Senato. Fini pensa a una minoranza interna e non aiutano le risse in TV come quella tra il finiano Bocchino e l'ex forzista Lupi, ma intanto si cercano gesti distensivi. Soprattutto il premier Silvio Berlusconi sta pensando a una riconciliazione. Da una parte il Presidente del Consiglio apprezza i toni distesi degli ex DAN, soprattutto di Gianni Alemanno e di Renata Polverini, e per evitare esacerbazioni questa sera non terrà la tradizionale cena del caminetto del lunedì con Umberto Bossi ad Arcore. Il tutto in attesa di giovedì, quando all'auditorium della conciliazione di Roma Fini e Berlusconi si ritroveranno faccia a faccia nella direzione nazionale del PDL. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Per capire dove andrà il rapporto tra Berlusconi e Fini all'interno del PDL bisognerà attendere giovedì, quando i due cofondatori del partito si vedranno nella riunione di presidenza. Ma intanto abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori da che parte stanno. Oltre 4.000 i voti arrivati, con una divisione netta: 50% con Berlusconi, 50% con Fini. Ma le tensioni all'interno del partito di maggioranza rimangono. Sentite l'onorevole Giorgio Stracquadagno, berlusconiano. La verità è questa, che una parte del PDL e in particolare Gianfranco Fini pensava e puntava alla sconfitta elettorale nelle regionali per cercare di imprimere una svolta, e a questo punto però si è proseguito in un'iniziativa di tipo politico che non prendeva atto di questa mutata però condizione. Bianco o nero torna domattina alle 8:30 per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Altro tema caldo politico resta la giustizia. Per questo ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Dopo il processo Mills e la volta di quello Mediaset, il procedimento relativo alla compravendita di diritti televisivi è sospeso per tutti i soggetti coinvolti, compreso il Presidente del Consiglio Berlusconi, imputato per frode fiscale. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Milano, che hanno respinto la richiesta del PM di proseguire nel processo, hanno trasmesso dunque alla Consulta i relativi atti con la seguente motivazione: la legge sul legittimo impedimento doveva essere varata con iter costituzionale. La norma in questione, infatti, secondo i giudici, viola l'articolo 138 della Costituzione, in quanto introduce una prerogativa diretta a tutelare non il diritto di difesa ma la carica istituzionale. Si realizza di fatto, secondo i giudici, la medesima situazione già analizzata dalla Consulta sul cosiddetto lodo Alfano. Ma passiamo ai commenti. Di decisione scontata parla uno dei difensori del Premier, Niccolò Ghedini, per il quale è palese che non si voglia applicare una legge qui a Milano, dice ancora il parlamentare del PDL, i processi non ce li lasciano fare. È la legge che è incostituzionale, quindi non si può applicare, commentano dall'opposizione. Tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Un consulente per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo, Carlo Strassi, è stato arrestato in un'inchiesta nella quale sono indagati anche l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis e gli imprenditori Carlo Paolo e Alfonso Toto. Carlo è patron di Air One, ora all'Italia. L'indagine è relativa alla mancata realizzazione della strada Mare Monti in provincia di Pescara. Gli indagati sono in tutto 11. I reati contestati a vario titolo sono concussione, corruzione, falso ideologico, abuso d'ufficio, truffa aggravata, peculato ed altre violazioni penali a leggi sulla tutela ambientale. Ed ora a Napoli per un'operazione anti-racket che presenta una novità importante, ce la racconta Laura Viggiano. Sì, buongiorno. I carabinieri hanno verificato 84 episodi di estorsione ai danni di commercianti di Ercolano, comune alle falde del Vesuvio, dove gli imprenditori hanno iniziato a reagire alla criminalità. In questo caso in 30 hanno deciso di fare sponda comune con le forze dell'ordine e i magistrati, un fatto straordinario secondo il procuratore aggiunto Rosario Cantelmo. Il valore aggiunto l'ha data la partecipazione della gente, che ha, come dire, ispirato tutti i nostri comportamenti. Ripeto, la società civile che finalmente si è liberata da questo gioco insopportabile della camorra, è quello sicuramente, e continuerà e dovrà continuare ad essere quello il valore aggiunto per tutto il nostro lavoro. Le indagini coordinate dalla DDA sono iniziate a gennaio e sono terminate il mese scorso, hanno portato a 21 ordinanze di custodia cautelare, 18 eseguite in carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso e estorsione aggravata nei confronti di affiliati ai clan Ascione Papale e Iacomino Birra, che stabilivano le richieste di denaro in base al principio chi più ha più paga. Da Napoli è tutto. Grazie a Laura Viggiano. E parliamo invece di ciclomotori, perché sono troppe le richieste per gli incentivi del governo e molti rischiano di non incassarli, ma dal ministero rassicurano, i fondi ci sono ancora. Non vedevano l'ora degli incentivi sia i venditori che gli acquirenti, e così da quando dal 15 aprile sono stati resi disponibili 300 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico, le richieste sono esplose. Gli incentivi riguardano, fra i vari settori, motocicli, elettrodomestici, nautica da diporto. La procedura per richiederli è abbastanza farraginosa. Benvenuto al call center incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico. 800 1234050 è il numero verde che i venditori devono chiamare per richiedere il contributo del governo. In pratica la legge obbliga chi vende a stipulare subito il contratto d'acquisto del ciclomotore, 2 giorni di tempo per verificare telefonicamente la sussistenza delle risorse. Se la risposta dovesse essere positiva, si procede all'acquisto, altrimenti il contratto può essere sciolto. Attendere, le risponderà il primo operatore disponibile. Le chiamate spesso vanno a vuoto. Tutti gli operatori sono momentaneamente occupati. La preghiamo di chiamare più tardi. E i venditori lamentano la difficoltà della procedura che, dicono, potrebbe mettere a rischio la disponibilità dei fondi. Ma dal ministero rassicurano, Marco Cito del Dipartimento Imprese. C'è un grandissimo afflusso di telefonate al call center. Sono state fatte più di 80.000 prenotazioni. Il settore dei motocicli è in una posizione intermedia. Molte delle richieste sono state concentrate nei primi giorni, in questo momento c'è ancora disponibilità del fondo. Stefano Totoro, GR24, il Sole 24 Ore. Stop ai cartelli stradali in dialetto in Friuli Venezia Giulia. L'alto là arriva dal governo, che ha bocciato la relativa norma contenuta nella legge regionale sulla valorizzazione dei dialetti appena approvata in Friuli. Decisione inevitabile, sarebbe stato il caos, dice il senatore PDL Ferruccio Saro al microfono di Maria Luisa Pezzali. Il governo ha impugnato la legge approvata dal Consiglio regionale perché in contrasto con le leggi nazionali che tutelano la lingua minoritaria slovena, presenti in Friuli Venezia Giulia, la lingua friulana. Le altre lingue, più che lingue, sono dei dialetti, il gradese, il bisiacco, che erano oggetto di questa legge regionale, non sono riconosciuti a livello nazionale come lingue minoritarie. E conseguentemente il governo ritiene che con legge regionale non si possa imporre di mettere i cartelli bilingui con queste lingue. C'è il rischio che venga fuori una babele di lingue in questo nostro paese, facendo saltare in ogni modo un minimo di assetto unitario. Perplessa ma fiduciosa in una soluzione la Lega, che ricorda i cartelli con le scritte in dialetto su sfondo bianco presenti in molti comuni del nord. Federico Razzini, vice capogruppo del Carroccio in consiglio regionale. Sarà facilmente superabile. Io questi cartelli, insomma, li vedo un po' dappertutto, anche girando in Veneto, in Lombardia, la doppia dizione all'ingresso di un centro abitato col nome in italiano e il nome magari in dialetto veneto o piuttosto che lombardo. Penso che potremo superarlo sicuramente, insomma, potremo chiarirci sicuramente con il governo. A noi interessa la sostanza, il colore di un cartello non è sostanza, ecco, non è che non si retrocede affatto, semplicemente si trova una soluzione ragionevole, ecco, però valorizzando anche i nostri dialetti. Restiamo nel nord-est, presentato questa mattina a Padova il Festival delle Città Impresa, che seguiremo a Radio 24 con collegamenti ed approfondimenti. Come si svolgerà il tutto ce lo racconta Silva Menetto. Buongiorno, in effetti l'obiettivo finale è la candidatura del Nord-Est come capitale europea della cultura per il 2019 e nell'immediato si tratta di mettere le basi proprio per una rete di soggetti che possano collaborare e creare un modello nuovo di Nord-Est dopo questa crisi. Questo modello dovrà per forza passare attraverso la rilettura del concetto di cultura. Quello di cui vi sto parlando appunto è il terzo Festival delle Città Impresa, che va in scena dal 21 al 25 aprile in 7 città evento tra Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e che ha per titolo proprio La cultura ci fa ricchi. Questa mattina, come dicevate, il festival è stato presentato all'Università di Padova e nel convegno si è delineato come ci siano le diverse facce di questa cultura del Nord-Est, fatta di città d'arte, fatta di grandi musei, di grandi mostre, ma anche di cultura aziendale, di cultura scientifica, di design e di comunicazione. Tra i grandi protagonisti del festival ci sarà l'economista Jacques Attali e poi il fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, Marco Müller, il direttore della Biennale Cinema, l'attore Marco Paolini, ci saranno grandi nomi dell'industria e della politica, il tutto per dimostrare che il festival si propone come una specie di faro, di fucina di idee che possa accompagnare il Nord-Est nel suo cambiamento fino a farlo diventare una capitale europea della cultura. Bene, grazie a Silva Menetto. Italia 150 in chiusura, torniamo a collegarci con i nostri giornalisti camminatori. Si avvicina la meta per noi giornalisti camminatori Piemonte Patriots, impegnati nella marcia che da Torino ci sta portando a Mantova e poi a Castelmassa, dove incontreremo lo scrittore Enrico Brizzi e i suoi compagni di Francigena 21. Per loro i chilometri a piedi alla fine saranno 2200, per noi 330. Siamo a quota 265, la terra mantovana non è lontana. Ieri la nostra piccola carovana ha raggiunto Cremona da Pizzighettone lungo il canale che da Milano porta al Po. Nella patria di Tomiazzi, Stradivari e della Mostarda, abbiamo salito i 501 gradini del Turas e incontrato Elisi, italo malgascia di Moncalieri, che fa la rappresentante di spezie e di vaniglia alla fiera di Cremona. Nella città dei violini si fanno i conti con il calo dei turisti nei musei cittadini e con i problemi di tanti altri posti in Italia, compreso il bullismo nelle scuole. Alla media Campi, per affrontarlo, si sono rivolti ai ragazzi stessi. 18 di loro sono divenuti vigilantes con tanto di cartellino e offrono un aiuto a chi è vittima di qualche prepotenza. Da Cremona oggi abbiamo preso la vecchia Postumia, cascine, allevamenti, ma non più come un tempo. Qui a Redondesco, tra gli anni 40 e 50, c'erano ancora 100 persone al lavoro. Poi i contadini si sono trasformati in operai. Oggi resistono solo le aziende agricole più grosse. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Vescovado, Redondesco. Questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Vi lascio allo speciale dedicato al perdurare purtroppo dello stop nei voli europei, Italia compresa. C'è peraltro una novità molto importante dell'ultima ora, ma la scoprirete dunque fra pochissimo. Il GR torna invece alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.